Disco Dallas says a manner. Iniziamo questa settimana, Mauro, è anche cambiato l'orario, ci serve un po' di energia. Il disco della settimana deve essere un disco un po' particolare oggi. Beh, anche perché la traccia che abbiamo appena ascoltato si chiama Asleep, cioè sveglio, quindi ci dà la sveglia. Ci dà la sveglia, poi con questo cambio orario sappiamo che i problemi di sveglia sono anche molto... Il jet lag senza neanche viaggiare. Ma sai che ho scoperto, per dire, che durante questa giornata in cui... c'è il cambio orario, la gente si incoglionisce di brutto e non so, si fanno più incidenti, si dimentica gli appuntamenti, no, è un po' così, vabbè, ci si sveglia comunque, male. Oggi noi vi raccontiamo comunque un disco per questa settimana, un disco che è uscito venerdì 26 marzo, quindi pochissimi giorni fa, e è un album dalle influenze disparate, ma anche un po' disperate, perché l'album si chiama Eyes of a Desperate Soul, gli occhi di un'anima disperata. Ok, adesso lasciamo spazio per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Per le risate. Per le risate, esatto. Sicuramente. Se vuoi cerco quelle preregistrate. Ed è l'album di Jonta, l'album di debutto di Jonta, che però in realtà ha già fatto progetti precedenti. Esatto, poi ve lo racconteremo. Jonta si chiama Antonio Francesco Daga e fa uscire quest'album il 26 marzo, quindi pochissimi giorni fa, con il nome, con lo pseudonimo giunta. Questo disco è un disco che a noi è piaciuto perché effettivamente ogni traccia è molto molto avvolgente a livello musicale e si sentono le tante influenze musicali che lui ha scelto di inserire, diciamo, all'interno di questo album. Le influenze musicali sono un po' reggae, un po' dub, si sente elettronica, si sente anche cantautorato, quindi cose che sono molto distanti tra loro. Poi c'è un tocco di pop, un po' di tribale, diciamo che appunto dei generi molto distanti tra loro hanno trovato il modo di incastrarsi all'interno di queste tracce. Ecco, c'è molta sperimentazione appunto in quest'album. E Giunta dice: talvolta pare di essere sospesi, senza il sostegno della struttura canonica della forma canzone. I testi sono un'analisi intima e personale di sé, del passato, della vita, e passano in rassegna un po' tutte le emozioni appunto del giovane cantautore, e in un viaggio che è talvolta ermetico, talvolta cristallino. Quindi appunto anche questi testi vanno un po' interpretati e portano le emozioni del cantautore, che poi possono essere trascese a tutti gli ascoltatori. Sì, è l'ascoltatrice, ricordiamo. Anche all'ascoltatrice. A tutto. In effetti a me sinceramente più che i testi quello che mi colpisce e mi trasporta, devo dire effettivamente, sono le sonorità. Ma continuiamo a scoprire allora quest'album che vi ricordiamo è uscito il 26 marzo. Abbiamo già ascoltato la prima traccia, ma adesso vogliamo farvene ascoltare un'altra. Esatto, dopo Asleep, che vi ricordiamo è la traccia che avete ascoltato prima, ci ascoltiamo The Blackest of Visions. Perché dicevamo che abbiamo già sentito la voce di Giunta? Perché Giunta ha già pubblicato nel 2019 con lo pseudonimo Antonio F. Space Monkeys, che era il suo primo EP. Quindi, le scimmiette spaziali, bello! Sì, simpatico come nome. In questo progetto però, nel progetto appunto Antonio F., era lo pseudonimo che veniva utilizzato da Antonio Francesco Daga per Space Monkeys, diciamo che la protagonista era più la voce, era proprio al primo posto, no? In primo piano. Era l'unico posto in realtà, perché era un album di vocal looping, cioè lui registrava delle tracce vocali che tipo punci punci punci, poi ci registrava sopra delle altre tracce vocali, poi delle altre tracce vocali, delle altre tracce vocali, e creava tutta una struttura musicale fatta semplicemente con le voci. Ecco, qui è cambiato, non dico radicalmente, però diciamo che la voce è, secondo me, almeno a mio parere, va quasi delle volte in secondo piano rispetto alla parte invece musicale. Giunta ci dice: rispetto a Space Monkeys, dove il viaggio immaginario veniva fatto all'esterno per osservare al meglio gran parte delle dinamiche umane, riflettendo su se stessi ciò che si andava a imparare, Eyes of Desperate Soul è l'immagine del nostro subconscio. È l'immagine che il nostro subconscio presenta a noi stessi e quasi automaticamente, ma non sempre, agli altri. È un viaggio puramente introspettivo per un'anima che ha necessariamente bisogno di rinascere. Ecco, su Giunta non abbiamo tantissime informazioni da darvi, se non che si chiama appunto Antonio Francesco Daga, classe 1995, quindi giovanissimo, perché c'è solamente 26 anni. E adesso vi facciamo ascoltare un altro brano tratto da Eyes of a Desperate Soul, e continuiamo con Mental Age, l'età mentale. E com'è la tua età mentale? Quanto è più o meno? 12, credo. 12? Sì. Ah, ok, perfetto. Ma il mio fisico, l'età mentale è 25, me la tiro sempre su queste cose qua, ma facciamo ascoltare Mental Age. Mental Age, e poi sì, io ti racconto i cazzi miei, insomma, intanto che va la canzone. Prima hai detto una cosa, ti devo riprendere. Hai detto che non sappiamo tante cose su Giunta. Non è vero, noi in realtà abbiamo una bio, abbiamo delle informazioni su quest'artista. Siamo andati a studiarle. Mentre andava la canzone, no? Sì. No, ce l'avevamo già prima, però ti eri dimenticato, ecco. Antonio Francesco Daga, in arte appunto Giunta, è del 95, come hai detto tu, ed è un isleño, perché è di Sassari, è un sardo. Esatto, nasce la Sassari il 20 gennaio 1995. Non facciamo delle imitazioni che ci perdiamo, sì, no, tutto. Che poi ci cacciano. E vive in una piccola frazione della cittadina di Alghero, in compagnia di uno straniero, probabilmente. Inizia a cantare. Ma sai che lo straniero potrebbe essere uno del continente, perché i sardi chiamano gli italiani. E se noi andiamo in Sardegna siamo gli stranieri che vanno ad Alghero. Dal continente. Però comunque, sorvolando questa cosa, passiamo alla sua parte musicale. Perché sì, lui fin da piccolino canta, si esibisce, fin da quando ha 12 anni, con delle band hard rock. Ah, lei così? Spapam. Beh, cambia molto, molto genere, devo dire, no? Cioè, anche tra le band hard rock a 12 anni, poi il primo album tutto voce, questo che invece ha molte influenze musicali, devo dire che si muove così, con molta fluidità tra i vari generi. Anche perché alle scuole superiori, insieme a Fabrizio Zara, chitarrista, lui porta avanti un progetto di cantautorato classico. È una cosa diversa, così le prova un po' tutte. Quindi con le band lui suona un po' in maniera sporadica, un po' qua, un po' là, mentre questo progetto di cantautorato va avanti per un bel po'. Va tuttora avanti, se non sbaglio. Fa anche delle date in Polonia, pensa te, così. Si fa un mini tour di 3 date assieme a Fabrizio, che è appunto Fabrizio Zara, il suo chitarrista. Nel 2016, bam, andiamo in Polonia a suonare. Perché no? Perché chi ce lo impedisce? Non lasciano spazio alle parole, la mia bocca è congelata, gli occhi tuoi che guardano altrove, tento di trasmettere su una frequenza appunto dicevamo che nel 2019 inizia il suo progetto solista, quindi diciamo questo sodalizio con Fabrizio Zara si mette un momento in pausa, perché con lo pseudonimo Antonio F pubblica l'EP di cui abbiamo parlato prima, Space Monkeys, che è appunto, come dicevi tu, un disco fatto con una loop station in cui c'è la voce è assolutamente una protagonista. Adesso che il mondo dello spettacolo è completamente immobile, ha deciso di cambiare il nome d'arte, non solo perché è cambiato anche lui, ci dice, un po' internamente, esteriormente, è cambiato e quindi è diventato Jonta. Però c'è un motivo. Esatto, Jonta è il cognome del padre, cognome che lui non ha mai potuto portare e di cui con questa scelta Antonio si riappropria un po', interiorizzando e accettando il suo passato per costruire un nuovo futuro, ci dice. Sì, perché con parole sue ci spiega che è una maniera romantica di prendere il cognome che non ho mai avuto e che dovrei in realtà possedere, quindi si riappropria di qualcosa che doveva essere suo. Con questo nome d'arte appunto pubblica questo disco che vi stiamo presentando oggi, che è uscito il 26 marzo, quindi venerdì scorso, che è Eyes of Desperate Soul, ed è un disco dove appunto la voce è sempre protagonista, però c'è un'aggiunta musicale molto forte. Quindi a noi è piaciuto molto questo progetto, ci è piaciuto il fatto che giovanissimo ha comunque già sperimentato tantissimi generi musicali e anche la scelta di questo nome è una scelta importante, ci è piaciuta la spiegazione, insomma diciamo che Jonta ci ha conquistato sotto diversi punti di vista. Noi speriamo che vi stia piacendo la presentazione di questo disco e le tracce che finora vi abbiamo fatto ascoltare, ma vorremmo chiudere diciamo questo disco della settimana e questa settimana con l'ultimo pezzo che abbiamo scelto. Sì, abbiamo scelto di chiudere con Regrets, che è un po' rimpianti, sperando che lui non ne abbia di aver fatto questo album, che comunque a noi ci è piaciuto molto. Speriamo, non so se si è capito, perché l'abbiamo detto. Speriamo sia piaciuto anche a voi Eyes of a Desperate Soul, il primo album con questo nome di Jonta. Standing.